Europa 24. E un saluto da Anna Migliorati. We have a single resolution mechanism financed by banks. E così Elisa Ferreira, europarlamentare socialdemocratica al Parlamento europeo, ha annunciato questa mattina l'attesa svolta. Ha superato l'ultimo spoglio per l'unione bancaria, accordo raggiunto dopo un lungo braccio di ferro tra Consiglio e Parlamento europeo. Cominciamo da qui il nostro spazio oggi di Europa 24, andando a Bruxelles da Enrico Brivio. Sì, ci sono volute 16 ore di negoziati e una telefonata alle 5.30 del mattino al ministro tedesco Wolfgang Schäuble delle finanze per avere il suggello finale anche della Germania, e si è arrivati all'accordo finale tra le istituzioni europee sull'unione bancaria, un accordo che il commissario Michel Barnier ha definito come il più importante dopo la creazione dell'euro. Ci sarà quindi un unico sistema di salvataggio ora nel caso di fallimenti bancari, per evitare che si propaghino crisi a tutto il sistema economico. Le novità rispetto a quello che era stato l'accordo precedente sono un accorciamento dei tempi della creazione di un fondo, del fondo unico che dovrebbe intervenire negli interventi in caso di salvataggio di una grande banca, cioè sarà formato nell'arco di 8 anni e non più 10, e gli stati dovranno conferire quote raccolti dalle banche per il 70% nei primi 3 anni, quindi quella preoccupazione che aveva anche Draghi e la BCE che non si mettesse in piedi sufficientemente rapidamente questo fondo dovrebbe essere superata. E grazie allora ad Enrico Brivio. Intanto oggi è il giorno del debutto europeo del premier italiano Renzi in un Consiglio europeo che ha molti temi sul tavolo, temi delicati a cominciare dalla crisi in Crimea, l'avete sentito, ma anche il complicato capitolo energetico. A parlare poco fa è stato il presidente della Commissione Barroso. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'en parler à monsieur Renzi. Bien sûr, tout le monde doit continuer à appliquer les règles convenues. J'ai pris bonne note. Vanno applicate le regole, lo sentite, ha detto Barroso. E allora andiamo anche da Sergio Nava. Sì, buongiorno. La dichiarazione è stata praticamente congiunta di José Barroso, Presidente della Commissione Europea, e anche del Presidente del Consiglio Europeo, Herman Van Rompuy. Entrambi, rispondendo a una domanda poco fa in conferenza stampa, hanno di fatto detto: dobbiamo ancora vedere Matteo Renzi, però le regole vanno rispettate, e parlavano ovviamente delle regole del patto di stabilità. Barroso ha aggiunto con un'apertura che ha preso atto delle dichiarazioni fatte a Berlino e anche del programma molto ambizioso di riforme che ha messo in campo Matteo Renzi, un'apertura quindi da parte della Commissione verso il programma di riforme, però per il momento non si tocca il patto di stabilità, questo è il messaggio. Va anche detto che Barroso vedrà tra circa mezz'ora Matteo Renzi in Commissione Europea, sarà il primo incontro ufficiale, e Matteo Renzi vedrà domani mattina invece il Presidente del Consiglio Europeo Herman Van Rompuy. Per questo entrambi hanno evitato di sbilanciarsi troppo. Matteo Renzi, che è arrivato poco fa alle 13.25 al prevertice dei socialisti europei, non ha rilasciato dichiarazione, ha detto parlerò dopo, si è fatto però precedere da una salva di dichiarazioni proprio relative all'Europa. Ieri ha definito il patto di stabilità anacronistico, oggi ha detto che i fondi strutturali europei devono andare fuori dal patto di stabilità. Vedremo come l'Europa prenderà queste dichiarazioni, questi orientamenti programmatici, in sintesi anche i temi del vertice. L'Ucraina ha letteralmente sconvolto l'agenda, probabili nuove sanzioni, ma non ancora sanzioni economiche, piuttosto un'estensione delle sanzioni sui visti a personaggi ucraini e russi. Si parlerà anche di conti pubblici e del semestre europeo, si parlerà del pacchetto industria e anche di clima ed energia. Tanta la carne al fuoco, però ovviamente l'Ucraina a dominare da Bruxelles è tutto. E grazie anche a Sergio Nava. Naturalmente torneremo ad aggiornarvi e raccontarvi questa giornata nelle nostre edizioni dei giornali radio. L'Europa, vi ricordo, vi aspetta nuovamente invece questa sera anche ad Effetto Notte. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.